Prima volta faccio il riassunto di Fated. Scusate un secondo che non trovo la telecamera. Beh. Sì, anche io la devo collegare, datemi un attimo. Allora. Tra l'altro, non so se mi farò vedere oggi perché ho le zanzare cattivissime. Con la luce accesa Vabbè. mi giampano. Vediamo un attimo. Mi è venuto un po' di mal di pancia sentire questa voce, questa musica così. Per l'ultima volta. Nelle puntate precedenti. Nella scorsa sessione, abbiamo avuto due combattimenti contemporanei. Da una parte, Santo Meskenos, assieme alla Mukilos, combatte contro Devin e Nibel, appunto fuori città. Invece, in città, avevamo appunto Mif e Lieto, aiutati da Eidos, che combattevano contro Yona, diventato Laga. Giusto? Perfetto. Racconterò i due scontri e poi prima uno scontro e poi l'altro. Fra Nibel e Meskenos c'è stato un combattimento cruento in cui è apparsa all'inizio del combattimento Meiklon, Ok. che appunto si è mostrata a tutti, ha fatto cadere tutti e quattro in questo buco. Ci tenendo a specificare, io non sono la dea dei funghi. Nonostante tutti la definiscono così e continuerà a essere definita così, anche in morte i suoi desideri non vengono Vi rispettati, un odio. po' come tante persone trans. Detto Il nome questo, era Rebieca, non mi ricordo il cognome perché non ho Von fatto in tempo a Slepila. scriverlo. Che non lo scriverò perché è troppo complesso. Fammelo dire tu. Appunto, inizia il combattimento in cui tutti se ne danno di tutti i colori, anche sì, la Meskenos. La La Mukilos Mukilos. ne riceve e le dà. Mukilos credo non Alla abbia fine fatto di... un punto di danno a nessuno, in realtà, per essere precisi. No, mi ha scaricato incattato Sì. un Meiklon in Ah, faccia. Infatti, io ok. stavo dicendo, no, non l'ha fatto il Scusa, danno. me Sì, ne... più di 30 HP gli ha tolto. Me ne Cioè... avevo rimossa questa cosa. Errore mio. dà. Vabbè, comunque alla fine del combattimento, Devin viene appunto quando ormai... Nibel riesce a dare il colpo di grazia alla Mukilos e uccidendola. Solo che la Mukilos rinasce come santa. Devo dire il nome, Halusia. Santa Lucia. Lucia, santa dell'ordine. E del fato. Lucia, santa del fato. A quel punto è Cloppo, diventato. spostati. È Esatto. letteralmente Andiamo Cloppo, avanti. sì. Sì. Beh, è l'usurpatrice. Nibel a quel punto allora chiede come ultimo favore a Meiklon di riportare su Devin. Devin è alzato dai funghi. Rimangono i due santi assieme a Nibel. Nibel, giustamente, tutto questo, si decide di accendersi la pipa, gentilmente accesa da Meskenos, prima di menarsi con l'altra santa. Dopodiché, da un fascio di luce sul soffitto arrivano il Asmo Flower si chiamava. Chiamava Il vecchio professore di Adone Silas e Santa Volkira. Volkira, sì. Volkir, santa dell'amore. Maria Reziari. Non è della guerra. No, della Della guerra. guerra. Dell'amore La era guerra. Rodvold. Rodvold. Della guerra. Beh, stessa cosa. Ah, guerra, amore. Guerra e pace, un grande famoso libro. Vabbè, scusate, sto deragliando. Giustamente la santa semina con l'altra santa, Asmo prova a interpellare Meskenos e chiedendogli di andare via con le buone. Meskenos chiede: guarda, io me ne voglio solo levare dai coglioni. Asmo dice: te do. Quindi si iniziano a picchiare, tutto questo per riportare Meskenos a Falchena, metterlo nella centrale, dove nel nucleo ritroviamo il suo caro maritino asceso ad Avatar di Prestaia, che si ritrova il cadavere mostruoso stupefatto di Adone. E vengono chiusi per sempre lì nel nucleo. Fated Dall'altra Lovers. parte, Scusate. cosa hai detto? Fated Fated Lovers. Lovers. Una delle frasi mai dette. Una delle frasi mai dette, dicevamo. Sono totalmente normale al riguardo, dicevamo. L'altro combattimento invece è più un puzzle, diciamo. Mif e Lieto cercano di trovare un modo appunto per sconfiggere Laga, decidendo che il modo migliore era quello di farlo divampare di di fiamme, perché più bruciava, più poi finiva il carburante e si stancava. Lieto deraglia il piano perché sì, perché quando vai una donna gli può dire cosa può fare. E quindi giustamente Miff chiede aiuto all'unica altra persona possibile, ovvero Eidos. Fra il demone e l'uomo, chi scegli? Il demone. Eidos fa il suo lavoro da demone, comunque li aiuta, evoca i suoi imp e vanno avanti per un bel po'. Finalmente l'aga finisce il carburante e riescono a farlo addormentare e sigillarlo, giusto? Perfetto. Dopodiché Eidos e Miff parlano un bel po', Miff viene informata che stava arrivando Crook e che quindi il contratto era stato firmato perché la grandissima Moira Standout ha fatto qualche cacata, non si sa cosa, ha usato il mana in maniera impropria e quindi tocca. Lieto di tutta risposta ha deciso di levarsi dai coglioni, scavalcare il muretto e fermarsi nel vicolo dopo perché è stanco oggettivamente. Bianchi l'ha detto questa cosa, quindi Lieto è lì fermo così. Detto questo, dopo aver annunciato il suo piano, il suo grande piano ad Eidos, esatto, tra tutte le persone la più affidabile, l'unico che non era una persona in realtà, esatto. Per me puoi finirla qua perché riprendo io. Fine del riassunto. L'ultimo riassunto. Ho tre scene. La prima è quella di Nibel, cioè che coinvolge Nibel. Maria ha creato un gran numero di lame e le ha usate come barelle per trasportare Nibel e Devin. Devin ha esaurito le forze, è svenuto per cercare di rigenerare il più possibile Nibel, che è in una situazione critica comunque sia. Quindi sei sveglio, cioè vedi quello che ti sta succedendo intorno, ma sei incapace di muoverti. Mm-hmm. Maria marcia silenziosamente verso l'accampamento dell'impero, quello che avevate visto 3 sessioni fa, tipo. Lei è in silenzio, se non dici nulla, procede e basta. A fianco a te c'è... Un momento non ho motivo di parlare. Ha senso. A fianco a te c'è Devin che sta respirando, ma è KO. Raggiunte le porte dell'accampamento, Maria spalanca le ali. I soldati all'interno le vengono incontro, portandole una maschera personalizzata. Ad accoglierla anche la Magister Sigi. Alla luce degli ultimi avvenimenti ti sei dimostrata il soldato più valoroso e forte dell'impero. Verrai promossa a Magister. Purtroppo nessuno di noi crede che saresti adatta al ruolo di Magister Magi, che è l'unico ad essersi liberato. Per cui ti propongo di prendere il mio posto, mentre diventerò io il nuovo Magister Magi. Maria annuisce, prende la sua nuova maschera, realizzata per somigliare a quella di un rapace. Poco distante, sopra la barella, Devin si sta allontanando lentamente. Dimmi se vuoi fare qualcosa, Nibel, se no vado alla scena dopo. Non mi rivolgo a Devin e dico... Ancora una volta sparisci così? Ci vediamo tra poco. Taglio. No. Scusa, ma se facciamo dell'altro qua mi brucio la scena dopo. Vai vai. Come preannunciato, l'impero ha già affittato diverse stanze della locanda dove avete pernottato in precedenza a nome di Miff. Esausta, riesce a malapena a salire le scale. Inserisce le chiavi della serratura nella camera e rimane perplessa dallo scoprire che si è già aperta al suo interno. Cici ha impugnato la meridiana di Kronos e te la sta puntando al collo. Questa è la reazione di Biff, cioè ridere, cioè riderle in faccia e fare. Cos'è che intenzione di fare con questo? Non pensavo fossi tu. Che pensavi fosse? Non lo so, sono una traditrice dell'impero in una città piena di soldati. E abbiamo la stessa chiave? Ho detto ai tipi della locanda che ero con voi, mi ricordavano e me l'hanno data senza fare troppe domande. Tu mi sa che devi sparire entro domani mattina presto. un consiglio appassionato da parte mia. Non saprei dove andare, ma apprezzo il consiglio. Scusate, ho killato una zanzara gigantesca. Mithril. Okay. Esatto. Ti dispiace se dormo qua per stanotte? No, no, non c'è nessun problema, non mi dai fastidio. Non aspettarti che gli altri tornino. Nibel è riuscito a avere la sua vendetta? Non lo so. Non so niente. E tipo, Mif si spiaggia su un letto, lascia le sue cose per terra, tipo così. Non lo so, non li ho più visti. Lei abbassa l'arma, si siede su un letto e dice: non volevo lasciarli in una brutta situazione, ma non voglio morire di nuovo. No, è comprensibile, non ti giudico. Stavo pensando di ritirarmi in un posto dove non ci siano tutte queste stronzate. Al tempio? Anche se probabile magisteristi può venire sempre a visitare. Pensavo più a Porto Leone. Non è male Porto Leone, effettivamente. Non andrò a pescare, ma potrò fare tipo la guardia del corpo di qualche ricco mercante. Sì, è un futuro che riesco a tollerare. Ti auguro il meglio, Cici. Tu che puoi ancora scegliere. È andata così male? Già. Mi spiace. Ehi, se vuoi possiamo affittare una barca in due. Temo di non poter scappare dalle mie responsabilità. Sei tu ad avermi detto che hai sempre una alternativa. Già. Tagliamo la scena? Sì. Vai. Indovina un po' chi tocca. Il dolore muscolare e la stanchezza sarebbero in grado di stendere qualsiasi essere umano. Dopotutto, stanotte hai prevenuto la fine del mondo. Stamattina hai disceso a piedi una montagna, partecipato a una guerra nel primo pomeriggio, scarpinato per altri chilometri su e giù per la città e per i suoi palazzi, affrontato l'avatar di una creatura aliena e, per concludere il tutto, hai scalato dei pilastri di metallo. Ma un avatar del dio del tempo sopporta decentemente questa pressione. Certo, se dovessi combattere ora avresti dei grossi problemi, ma chi cazzo è rimasto da affrontare, no? Sono morti tutti! Ti avvicini al molo. Hai abbastanza soldi da comprarti delle banchine intere, non solo delle navi. Devi solo trovare un mezzo che possa portarti in Nadiria senza affondare prima e senza metterci dei mesi. Sei attratto per qualche ragione da un'imbarcazione in particolare, senza bandiera e di medie dimensioni, ideale per quello che devi fare. Ormeggiata alla fine di un pontile. Ti avvicini per cercare il proprietario e, come se l'universo ti stesse rispondendo, proprio quando la raggiungi, emerge dalle scale una donna. Lunghi capelli biondi, occhi chiari, vestiti sgualciti, da monaca. Uno sguardo da pazza che hai visto solo un altro paio di volte in vita tua. Hai un extra sistole. Pensavi che col tuo nuovo stato di larva di divinità le forti emozioni umane sarebbero sparite, ma non sembra questo il caso. Le palpitazioni ti rendono difficile muoverti o parlare, rimani paralizzato abbastanza a lungo da permetterle di raggiungerti. Non ci vediamo da qualche giorno, eh, Lieto? Non stai più con gli altri? No. Adesso ho la mia di strada da seguire. Ho capito. Cercavo te. Sei sorpreso di vedermi? Giusto un pelo. Sto cercando Fon Lux. Emperor, numero 4, Arva, Remate, chiamalo come cazzo ti pare. Dimmi. È scappato troppo a lungo e ho bisogno di ucciderlo. Non voglio farti del male, non me ne frega niente di te. So che lo puoi evocare. Se lo fai, ti lascerò andare dove vuoi. Perché dovrei farlo? L'ultima volta non è andata benissimo. Guarda che alternative hai. No, non penso che lo farò. Eh sì, Lei alza una mano e dietro di lei compare la testa di un toro nero, gigante, colossale, 4 metri di testa. Lui è un mio amico. Quando sono morta per la seconda volta in 2 giorni, lui mi ha riportato indietro. E tutto quello che mi ha chiesto in cambio, di cancellare quelle orribili visioni che mi ha dato l'uomo che ride, è di uccidere numero 4. Hai un sacco di tempo per uccidere numero 4. Per adesso ne ho ancora bisogno. Interessante. Se sei disposta ad accompagnarmi, potrei ucciderlo quando non mi servirà più. Il toro, che è un toro, quindi non dovrebbe parlare, parla, ruggisce. Oh. Il tempo. Io, a differenza degli altri, lo percepisco. Ogni singolo secondo è una lama nel mio petto. Ma sì, se questa è una garanzia, se questa è una certezza che avrò la mia vendetta, che potrò finire il lavoro che ho cominciato così tanto tempo fa, lascerò ora come arma. Quando avrò terminato la mia missione, non ci sarà più neanche un numero a disposizione. Il toro sorride e sparisce. Ora si mette a posto i vestiti e dice: ho già preso in prestito questa nave. Andiamo? Quindi hai già parlato con l'uomo che ride? Sinceramente non l'ho più visto da quella volta che mi sono lanciata al terzo piano. Io sì, io l'ho rivisto. Che dice di bello? La caldo della fine del mondo? No, niente di particolare. Beh, sappi che sta facendo un lavoro di merda, visto che ne ha distrutti 0 di mondi. Mentre il mio amico toro, qualcuno in più. E io il toro non l'ho riconosciuto, cioè non... Quindi chiuderei un attimo gli occhi e chiederei ad Arva se lo conosce. Carina la cosa che stai cercando di tradirmi, ma comunque chiedi il mio aiuto. Non ho intenzione di tradirti. Vuoi semplicemente sfruttarla? Mi serve solo del tempo. È quello che regalo io. Bene, penso che mi fiderò di te. E che, anche volendo, non sai dove trovarmi, quindi non ho nulla da perdere. Quel coso ha distrutto il mondo da cui provengo. Ok. Lo ha distrutto per merito mio. Merito non causa. It did not stutter. No. Ok, va bene. Sì, sì, sì. Non mi interessa per niente da dirti. Anzi, se il mio piano va a buon fine, cosa succederà a te? Spero che finirà questo orrendo supplizio. In ogni caso, tanto tempo fa ho visto un mio simile fuggire da questo postaccio che chiamate Terra. E credo che potrai aiutarmi a fare la stessa fine prima che tu sigilli tutto. Mi sembra una proposta più che onesta. E Nadiria, ci sarà un teletrasporto. Lo attiveremo di nascosto e io andrò a fare compagnia a Quibol e a quell'altro. Riapro gli occhi e seguo ora sulla nave. Ora, dopo 2 secondi, ti fa capire come ha ottenuto possesso della nave. C'è una fila di cadaveri. C'è una fila di cadaveri smangiucchiati. Avevo 0 sorpresa questa cosa. Tipo, ah, la potevo pagare ora. Io no. E sono dovuta venire qui da Apeira, quindi... Potevi chiedere, per favore, potevi rubare, ma è uguale. Un toro gigante che distrugge le cose, perché dovrei. E come si chiama il toro? Lo sto chiedendo ora. Erebos. Non ho capito se il fatto che sia un toro è un gioco di parole o una sua stronzata psicolabile, non lo so, non mi interessa. Non interessa particolarmente neanche a me. Siete degli strumenti verso un fine. Finito il mio piccolo patto con lui, farò quello che voglio, quindi... Yay. Taglio. Voi state partendo per la Nadiria. Cioè... Stavo partendo per la Nadiria, a cazzo c'è una destinazione che preferisci? La Nadiria voi non avete idea di come sia fatta, cioè non esiste una cartina geografica della Nadiria, quindi per voi è arrivata in Nadiria e poi ci si vedrà. No, ma soprattutto senza equipaggio, cioè siete in due. Come la gestite la nave? Credo un che dio sia... è un... No, abbiamo il dio del tempo e il toro che mangia tutto. Il toro di Bridgewater 2012. L'avevi capito, grande King? No, sì, l'avevo già riconosciuto quando hai detto il toro lì. I know this fucking guy. E... Bom, per fartela breve, il punto dove c'è la breccia è il polo sud magnetico del mondo, che in questo mondo non è nel polo sud, è anche nel nostro in realtà, però è ancora più lontano, diciamo. E... Però sì, non... oltre a questa informazione non sapete niente. Ci sono tre macro regioni da attraversare, grandi circa come l'India, e il vostro viaggio sarà mega lungo. Onestissimo. Sì. Ma io ho l'ultima fase. Dalle vostre decisioni stiamo finendo la campagna. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo, benissimo. Faccio un time skip, poi ritorno indietro nel tempo. Il giorno dopo, il 25... Sull'isola... Aspetta. Nibel è sopravvissuto alla notte? Dimmi tu. Devo tirare un dado. Posso, ti prego. Cioè, scusatemi, l'impero lo lascerebbe morire? No, nel senso dopo che l'hanno portato... malattia mortale e... No, penso che sia sopravvissuto, probabilmente. Sì. Ok. Quindi... realisticamente puoi andare da Glauco a farti guarire, insomma, cioè... fisicamente la sua mano è come se fosse cioè, il suo braccio è come se fosse completamente rinsecchito, cioè tipo un terzo della massa che aveva prima è nero in cancrena. Sì, poi gliel'ha rigenerato Devin e poi l'ha rimarcito, cioè due o tre volte. Sì, sì. Perché, ma adesso non ho più il potere di Meclon, quindi tutti i funghi che avevo nel corpo sono marciti, tipo, quindi sì. È in decadimento atomico. Ok. L'unica persona attiva sull'isola è Mif, l'unica persona del party, diciamo. Ce ne sono altre, c'è Maria, eccetera. E quindi è solo Mif a vedere in prima persona questo. Senik, che da diversi giorni è immobile in preghiera, finalmente lascia andare il rosario, che si infrange per terra sul mare, facendo dei veri e propri tsunami come risultato, inizia a parlare in modo che tutti i presenti a decine di chilometri riescano a sentire la sua voce gutturale, e parla nella vostra lingua, interpretatelo come cazzo vi pare, in comune. Liviagon, madre delle bestie, io ti do la mia vita e tu porterai la giustizia nel mondo. L'anima di Senik abbandona il suo corpo, e per una creatura così grossa la sua anima è letteralmente un fumo dorato che si separa dal suo corpo, che cade all'indietro facendo un altro tsunami, e l'anima viene completamente aspirata dalla centrale di Mana, che esplode, e da essa emerge una creatura. Un secondo. Volevo cambiare anche la musica. Dovrebbe essere questa. La dea delle bestie marine emerge dalla centrale e... è il contrario di Senik, invece di essere una creatura colossale è una donna di medie dimensioni, 1,70 m, 1,80 m. La cosa strana sono le sue appendici extra, le sue quattro ali azzurre, simili a pinne. La parte superiore del capo, quindi compresi gli occhi, è simile a quella di uno squalo, è una protuberanza morbida di carne. E sopra questa cosa, fino alla schiena, è coperta di corna, tutte sui toni dell'azzurro, grigio-azzurro. Ha degli artigli e dietro di lei un'aureola d'acqua. Cioè, immaginati un flusso d'acqua in eterno movimento, un anello d'acqua. Le sue intenzioni... Vabbè, c'ha anche la coda di pesce in fondo. Ok, è una creatura un po' strana. Le sue intenzioni sono palesi. Ha tutta l'intenzione di uccidere tutti gli esseri umani. Perché gli umani sono il vero problema del mondo. E stermina la popolazione, il personale fuggito dalla centrale usando i suoi artigli, anche delle magie d'acqua, di ghiaccio, cose del genere che utilizza per colpire a distanza, e poi arriva verso l'accampamento dell'impero, dove è prontissima a uccidere tutti. E la prima ad andarle incontro è Maria, che viene sconfitta rapidamente, le sue lame non riescono a penetrarla. I suoi poteri non sono comparabili a quelli di Lady Benteros, che ha, Santa Benteros, che si è divorata Senic. Non so se ti eri persa questo dettaglio. Tendenzialmente è come se fosse salita di livello un paio di decine di volte. E Maria non muore, viene scaraventata a terra e lei si lancia sul resto della gente lì, tra cui Mif. Ricordi cosa avevamo detto, Mif? Sì. Cosa facciamo? Tocca per forza, cosa vuole fare? Me la immagino che stava sorseggiando il tè della serie. Adesso arriva, tanto. Utilizzo la memoria. Dillo più forte. Utilizzo la memoria. La tua memoria? Non credo proprio. In che senso? La scena si sposta immediatamente su un'altra isola, dall'altra parte della Solveria. Ufarland. I ghiacciai e i vulcani, i prati fioriti e i mostri volanti, le sue mille contraddizioni. Nella periferia dell'unica vera città, una casa di pietra che, a forza di aggiungere piani uno sopra l'altro, sembra diventata una torre. Nell'ultimo piano, sola soletta, una giovane donna. Non si vede nient'altro che la sua bocca rossa e carnosa. Tutto il suo corpo è coperto. Guanti bianchi sulle mani, un velo nero da suora sugli occhi e sui capelli, lunghi abiti scuri che la nascondono interamente. Davanti a lei, fuori dalla finestra, compare dal nulla un'altra creatura. Teschi, squame e ossa costituiscono la sua imponente armatura, coprendo in maniera simmetrica ogni parte del suo corpo, che appare grande e grosso, oltre i 2 metri. Fra le sue mani, che tiene in questo modo, fluttua un mazzo di chiavi, tenuto insieme da un anello di ferro. Una chiave punta verso la ragazza, un'altra verso sud-est e un'altra verso il basso. La creatura parla con una voce ultraterrena e dice: Promezia, è giunto il momento. Davvero? Sai che non posso fisicamente mentirti. E sia, dammi il contratto. Cambio di scena. Mimi bambina. Sembra la stessa casa, solo con molti meno piani. Una bambina piccola in ginocchio prega al cielo. Ti prego, difendi mio fratello e Mif a qualunque costo. Se devo rinunciare a qualcosa, prenditi quello che vuoi, anche la mia vita. La stessa creatura di prima compare in cielo. Li ho già difesi e lo farò ancora se questo è quello che vuoi. Devi solo firmare un contratto e cedermi la tua anima. Ti sembra accettabile, Promezia? Tutto quello che vuoi, ma firmerò solo quando effettivamente li salverai. E sia, ma fino ad allora sarai maledetta. Nulla potrà ferirti e tantomeno ucciderti. Questo segno è il nostro sodalizio. Con una delle chiavi incide sulla fronte della ragazza il suo sigillo. Scena di prima. Ora vai e difendi Mif a qualunque costo. Scena di Mif. Non pensi di poter uccidere un santo, tantomeno Benteros, che a differenza degli altri che hai visto sembra particolarmente forte, motivata e furiosa. E ora che ha pure assorbito l'anima di Senic, la situazione sembra disperata. Il mostro con quattro ali e la testa da squalo, coperta da mille corni azzurri, sfreccia nella tua direzione, i suoi artigli pronti a squartarti. Ma un rumore acuto arresta la sua carica. Avevi chiuso gli occhi per la paura, e quando li riapri, il tuo corpo è avvolto da una corazza di ossa, e ci sono delle chiavi fluttuanti davanti a te. Quanto tempo, Mif? Ti sono mancato? Ora più che mai. Normalmente mi prenderei il mio tempo e cercherei di tirare fuori qualcosa di buono per me da questa situazione. Ma non credo che tu possa darmi nient'altro. Per cui... Tende un braccio e una miriade di proiettili neri trafiggono la santa, rimanendo attaccati all'aureola nera dietro la schiena di Mif, che tu non vedi, ma alle tue spalle c'è una cosa identica a quella che c'ha lei, solo nera. Bemteros, tutt'altro che morta o incapacitata da questa cosa, ti gira intorno e cerca un punto debole nell'armatura per attaccarti di nuovo. Yadamak si manifesta fuori da te come un'ombra che trasporta emozioni. Ognuno dei fili neri collegati alla santa si carica di un'emozione specifica. Rabbia, odio, amore, invidia, venerazione, indifferenza, disgusto, dolore. Il mondo non ha bisogno di anticorpi. Dio al tuo creatore che questa volta hanno vinto i diavoli. Ciascun filo esplode, lasciando una cavità di 10 cm nel suo corpo. Santa Bemteros, non si capisce come ancora viva, cade a terra, ma si rialza subito e tenta di mordere Mif. Yadamak prende le sue chiavi e le posiziona sulla tempia della santa prima che arrivi. Gira le chiavi e sussurra: di al tuo creatore che questo mondo è mio. E la santa sparisce. A differenza degli altri santi che sono stati, puff, non c'è più. Nel nulla. Sì. Senza un sigillo, senza nulla. Non ha detto nulla, non ha fatto Parità. Un cazzo. Incredibile. E cambio di canzone di nuovo. Oddio, dov'è? Non ti chiedo cosa vuoi fare dopo, te lo chiedo tra un attimo. Ho due scene. La prima sono la creatura gialla e la creatura nera che parlano tra loro. La creatura nera che dice: non posso credere che ti aspettavi di vincere con lei. Non hai vinto nemmeno tu. Oh, ma a me non interessa vincere. Mentre a te, chiaramente. Le tue parole sono vuote, caos strisciante. La partita non è ancora terminata e se tutto rimane così, ho tutto quello che voglio. Volevi essere sconfitto da un mucchio di mortali? Ammetto che sei fastidioso, ma a differenza loro io non posso impazzire, per cui puoi anche placarti. Altrimenti mi fai saltare il cervello e trasformi il mio cadavere in un campo coltivato? Potrei. Ti propongo un altro gioco, Ordine Cosmico. Ho lasciato altri buchi nel mondo. Ti sfido a chiamare Zakov per chiuderli. Non ho motivo di fare quello che mi chiedi. Perché sai che perderesti. So che parlare con te è completamente inutile, così come i tuoi tentativi di liberare il sognatore. Se credi questo, non mi resta che giocare da solo. Il mondo non impazzirà. Puoi anche smettere di provarci. Non hai visto chi detiene il potere? Il mondo è già impazzito. Solo che non ve ne siete ancora accorti. Lo status quo richiede che tu e gli altri vinciate ovunque, mentre se io vinco solo una volta, non si sveglierà. E chi vuole che si svegli? Abbastanza inquietante. Ultima scena, giuro. Questa è lunghissima, cioè sono veramente 75 pagine, ci provo. L'odore di petricore è così forte da essere insopportabile. Il fango a perdita d'occhio, calpestato da migliaia di ombre che vagano senza meta. È strano tornare a vedere, specialmente dopo che ti hanno cavato entrambi gli occhi. Ed è ancora più strano quando la prima cosa che vedi è il tuo amato da tempo trapassato. Gus, non posso credere che mi hai aspettato per tutto questo tempo. Pau, lo sai che ti avrei aspettato per sempre. I due berber si abbracciano. Sono ombre nell'oltretomba, circondati da dozzine di altri come loro. Ma loro sono gli unici felici. Possiamo andare, Pau? Sì, voglio solo leggere le carte per l'ultima volta. Il pesante e logoro mazzo dei tarocchi, sopravvissuto fino all'inferno, viene mescolato dalle sue lunghe dita ossute con eleganza. Estrae la prima carta, gli amanti, e guarda suo marito. Alla fine siamo morti, ma siamo insieme. Lascia cadere la carta per terra, e mentre sprofonda nel fango, il suo interno si deforma mostrando la morte di Gus, infettato dalla piaga bronza e ucciso dai soldati dell'impero. Poco dopo mostra la morte di Pao, pugnalata ripetutamente da Lieto e abbandonata nel fango. Sì. La prossima carta, il 5 di coppe. Cade a terra, e luppo sta canzone perché voglio questa qua nello specifico. Scusate. Povero mostro, innocente vittima degli eventi. L'illusione che nasconde il suo vero aspetto non durerà ancora molto, e se dovesse avvicinarsi qualcuno troppo versato nelle arti magiche, Eidos avrà un grosso problema. Ma è pronto a correre il rischio. Ha già recuperato il cadavere di una bambina morta di tubercolosi. Davanti a lui, sigillato ancora una volta nel nucleo, il corpo che contiene contemporaneamente l'anima di sua madre e l'essenza di suo padre. Ed è suo padre a parlargli. Lucifero! Traditore di chi ti ha permesso di vivere! Quante altre volte vorrai bestemmiare contro me e contro tutto ciò che c'è di sacro nel mondo? Tutte le volte necessarie. Non ti permetterò di incenerire il mondo né di ucciderlo. Io sono eterno, Eidos! Tra un miliardo d'anni non resterà nulla di questo granello di polvere che chiamate mondo. Ma io sarò ancora lì. Credi che non possa aspettare? Credo che tra un miliardo di anni non me ne fregherà più un cazzo. Addio, Xadak! Si allontana dal nucleo, tenendo fra le braccia una bambina che ora ospita l'anima di sua madre. E poi... Gipero ha un gran bel nome. Lucio, per far prima. Quasi quasi. La prossima carta, il 9 di bastoni. E questo chi è? Un uomo con abiti scuri sorseggia del tè seduto su una terrazza all'ultimo piano di un palazzo in Aniasmea. Guarda l'orizzonte sorridendo. E anche questa volta mi sono salvato. Sul libro all'ingresso del palazzo ha firmato con Donos Halieus. Il due di spade e la stella. Forse sei l'unico che ha capito tutto. Sopra una nave diretta verso il continente, un uomo dai capelli biondi, grande e muscoloso, con abiti militari. La Managan è la fondina mentre guarda il mare. E quando emerge un mostro marino, si allontana da quel lato della barca, mentre qualcun altro si occupa di uccidere la bestia. Che si fa i fatti suoi campa 100 anni, vero Carl? Se così fosse ne dovrei vivere 200, Ren. A parlargli una donna androgina, dai capelli biondi e vestiti uguali, sempre con una sigaretta in bocca. Il diavolo! Alla fine, hai pagato per i tuoi crimini. Vuoi descrivere il finale di Sylas e... Adone Meskenos? Scena, il nucleo all'interno della centrale di Falcheno, protetto da chissà quante guardie o persone. Diciamo, un santo e un avatar sicuramente produrranno energia per chissà quanto tempo, ma al tempo stesso la preoccupazione che si liberino c'è, ma nessuno dei due ha intenzione di liberarsi. Si entra nel nucleo. Sylas su un fianco, ad accarezzare un volto ormai plastico, quasi silicone, anche se non è ancora stato inventato. Meskenos, sempre su un lato, di fronte a lui. Lascia che Sylas accarezzi un volto ormai tumefatto. E lascia quel poco di consolazione a Sylas, che continua a chiamare un nome che Meskenos, a cui Meskenos non potrà mai rispondere. E si esce dal nucleo per l'ultima volta. Figata. La carta del diavolo sprofonda nel fango. La forza. Entrambe siamo state uccise dallo stesso mostro. Non avevi di più da dare al mondo. Un angelo corazzato con l'acciaio migliore del mondo, il suo volto quasi interamente coperto da una maschera da rapace. Le sue ali piumate si tingono del rosso sangue dei suoi nemici, siano essi mostri, criminali o divinità. Il suo sguardo vitreo è quello di chi ha perso tutto, ma nonostante questo si è dato un nuovo scopo nella vita. E se il mondo vuole questo per me, chi sono io per oppormi? Il 7 di spade. Un bastardo che passerà la sua vita a chiedere perdono. un uomo sulla cinquantina, alto e smunto, insieme a decine di altri vestiti come lui. Ara i campi intorno al tempio cubico e ogni volta che nessuno lo vede, fuma copiosamente. Non un solo pensiero nella sua testa, perché se pensa, la voglia di ammazzarsi si fa troppo forte. Guarda il cielo con gli occhi lucidi, una stella cadente passa sopra di lui. Non ho bisogno di esprimere desideri. Ho visto i tuoi occhi, Nibel. La stronza è già bella che è morta. La luna. Tra tutti, tu sei il primo che mi sarei aspettata di vedere qui con me. Fa ancora strano avere il volto scoperto, ma mai quanto essere così lontano da casa. Ludolf si domanda se riuscirà mai a sentire sua questa isola ghiacciata e infestata dai mostri. Ma questo è l'unico modo in cui potrà essere libero. È stato un politico, un criminale, un satanista, un mafioso, un condannato a morte, un funzionario statale. Ad Ufarlan forse ricomincerà dall'inizio. 4 di coppe. Ricordo che i tarocchi non volevano leggere il tuo futuro, come se ne fossero intimoriti. La piaga non sembra avere avuto nessun effetto su di lui, per cui ha continuato a vivere nell'impero tranquillamente. Certo, i suoi vestiti ora sono di metallo e sarebbero da buttare. Ma è un piccolo prezzo da pagare per poter vedere la meraviglia di una città costruita sopra la terra. Qualche volta ha pure rotto il voto fatto al suo popolo e si è levato tutto, per poter ammirare coi suoi veri occhi il mondo dei Solverici. Creature così fragili, così deboli, eppure così testarde. Le loro vite, che sono un battito di ciglia nell'esistenza di un nadiro, sono riempite fino all'orlo di eventi, di emozioni, di traumi e di competizioni. A nessuno della sua terra natia sarebbe mai venuto in mente di costruire una cattedrale come quella di Oclica. Le centrali di mana, poi, sono proprio un concetto aberrante, ma affascinante nella sua blasfemia. E questo mondo, per Turo, deve essere compreso, deve essere in qualche modo salvato. Perché la fine per loro non tarderà ad arrivare, ed è giusto che qualcuno si ricordi tutto. Si ricordi Naya, Mif, Jan, Maria e soprattutto Promezia. Che le loro flebili vite non siano soltanto un sussurro da dimenticare. Scriverà una canzone. Forse sarà il primo della sua città a farlo. Cavalieri di bastoni. Ironico che tu rischi la vita tutti i giorni e sei ancora vivo, mentre noi abbiamo fatto tutto secondo le regole e siamo morti. Il pescatore di Porto Leone ha ricevuto il suo pagamento con gli interessi. Sarebbe abbastanza ricco da potersi ritirare, ma la pensione non è cosa per lui. Acupa Getonte, dopo tutto, è un pescatore tradizionale e non accetterà una morte sulla terraferma. Rimpiange di non aver potuto cacciare Senec in mare, ma saranno altre bestie, altri leviatani che lo potranno ammazzare. Il cavaliere di denari. Non ho mai incontrato un uomo con tanto male dentro e che è riuscito a fare del bene. Nibel. Se vuoi descrivere il suo finale. Nibel è ancora all'accampamento con... Puoi farlo quanto tempo dopo vuoi tu. Cioè anche una settimana dopo, un mese dopo. Ok. Se c'è... Io mi guardo attorno per vedere se c'è... Devin, se non lo vedo in giro, okay. Cerco Maria. Credo che allora ti farò dopo, perché se vuoi la allora, storia di Devin è subito dopo. No vabbè, non importa, cioè, posso andare da Maria allora. Ok. Se la trovo. Ti stiamo parlando di giorni dopo. Sì, ok. Vedo come sta messa, visto che era stata, aveva combattuto, l'ha perso. Sì. È scioccata per tutti gli ultimi avvenimenti, ma essendo un santo si riprende abbastanza in fretta. Inoltre avete la creatura di mana per rigenerarla e è già pronta per il prossimo viaggio, probabilmente verso nord-ovest. Prima volta che ti becchi una batosta del genere? Sai, a differenza di quasi tutti i soldati, io non sono mai morta. Beh, a parte quella volta con Adone. Quindi... Ricordami un po' qual è il vostro piano. Dell'impero o... Il tuo. Sarò la spada e farò tutto quello che serve per servire il mio paese. La spada di chi? Dell'impero? Dell'impero. E cosa vuole l'impero? assicurarsi che non succeda nient'altro di quello che abbiamo visto in questi giorni. Ci sono stati dei cambiamenti, Nibel. Non c'è più una classe corrotta. Mi serve che tu sia un pochino più specifica. Mi assicurerò che tutti i mostri vengano tenuti alla larga delle nostre città, che nessun criminale possa fare del male a dei civili innocenti, che nessuno con troppo potere possa dominare il mondo. E per le centrali cosa ne pensi? Stanno già lavorando a un metodo per renderle più eco-friendly. Rodvold è già un esempio del fatto che questa cosa si può fare. Lui è dentro la centrale per sua spontanea iniziativa. Gli altri due che abbiamo incarcerato a Falchena sono in una situazione analoga, diciamo. Forse non sono stato abbastanza chiaro. Cosa ne pensi tu? Mia nonna è morta perché non si poteva permettere i soldi per le cure mediche. Da quando ci sono le centrali queste cose non succedono più. Non posso dire che voglio un mondo senza il mana. Un peccato. Allora ti chiederò un ultimo favore e poi penso che le nostre strade ci separeranno. Tutto quello che vuoi. C'è un posto qui ad ovest. C'è una villa. Vorrei poter andare a fare una visita ad una persona, chiamiamola così, che mi ha proposto di aiutarmi. I Magister sono stati abbastanza chiari sulle cose di quest'isola. Conosco il cavallo Nadiro. Prende, cioè ti solleva e ti trasporta volando. E mentre vola aggiunge: sai, sono stata in Nadiria da ragazza. Non è un posto così brutto come dicono quando non incontri un rinoceronte incazzato. Ma sì? Sì. Dimmi di più. È tranquillo. Non c'è... non ci sono città. Non c'è rumore. E persino gli animali sembrano vivere una vita più tranquilla. È un bel prospetto, sì. Sai qual è il problema? Quale? È che in tutti questi anni di malattia, quelli in cui mi sono sentito più vivo sono questi giorni nella quale ho viaggiato con questi pazzi, nella quale il mio corpo ha bruciato di un obiettivo. Ora quell'obiettivo non c'è più. Ti basta trovarne un altro. Sì, sono d'accordo, forse è presto per questo vecchio. E poi dopo tutto ho ancora una promessa da mantenere. In bocca al lupo. Sia Mif che Lieto saranno felici di averti al loro fianco. Sappiamo tutti cosa succede, non serve che la ruoliamo. Ma comunque Glauco ti guarisce. Glauco camperà a oltranza, non so se è chiaro il concetto. Non c'è nelle carte perché è come raccontare la storia di un sasso. Com'è che lo guarisce? Ecco, la magia Nadira. Ah, quindi... sì. Sì, ok. Che bella magia che... no. Cadono tre carte insieme stavolta. Il folle, il quattro di denari e l'imperatrice. Sei il più grande bastardo che il mondo abbia mai conosciuto. E forse per questo ti aspettano grandi cose. Ha perso più pezzi in un mese che nel resto della sua vita. E non parlo della mascella o del braccio, ma di tutto ciò che dentro di lui è cambiato. Di tutto ciò che gli è stato rubato. La ricerca della verità e della giustizia lo ha ossessionato al punto in cui non può più redimersi. Grazie per avermi portato qui, Maria. Non avevo un altro modo per stare così vicino alle due Magister. E grazie, Nibel, per aver spezzato la protezione alla morte della Magisteristi. Senza di te non sarei mai riuscito a fare questo. Devin tira fuori la sua managam modificata, che ha già ucciso il Magister Magi e che è stata perfezionata a Xadak. Terrore generale, il panico delle due Magister e tutti presenti. In tanti si lanciano su Devin per fermarlo, per ucciderlo. Ma ma quello che sta parlando è un fantoccio di pietra. Quello vero, 30 metri più avanti, dietro le due donne, prende la mira e spara due volte. Questa è l'ultima notte. Lascia cadere l'arma, sulla quale è stata incisa la frase che ha appena detto, e alza entrambi le mani in segno di resa. La sua mascella metallica tradisce il suo sorriso compiaciuto, il sorriso di chi ha mozzato le tre teste più pericolose dell'Idra, il sorriso di Bruto e Cassio, il sorriso di Giuda, il sorriso di Devin. Il mondo! Alla fine hai pagato per i tuoi crimini. Vero Mif? Dimmi la mia fine. Come? Dimmi la mia fine. La faccio io? Vai. No, più che altro, cioè, com'è finita la cosa con Yadamak? Yadamak ti lascia un frammento del suo potere, come ha fatto le altre memorie, che dovremo decidere in separata sede. Okay. Fatto sta che ora hai una frazione del suo potere e sei libera di farlo. Non hai nessun debito, ma quello che succede poco dopo è che Devin viene condannato a morte. Come tutti voi sapete, le condanne a morte non vengono fatte nell'impero, e quindi Devin riceve l'upgrade di essere uno schiavo dell'impero, uno schiavo da mandare a fare le cose difficili. E indovinate un po' chi diventa il padrone di Devin? Il nuovo presidente della commissione per le centrali. No! Chi altro? Giusto! E voi tre, perché vi assegnano anche la creatura più forte dell'impero, Maria, venite mandate a costruire, allegedly, l'ultima centrale di mana, quella di Ufarland. È una cosa che Brooke ti ha obbligato a fare, era parte del contratto, una cosa che dovevi fare. Sai benissimo chi è che devi sigillare, sai benissimo quali saranno le procedure. E però è la nuova wave di centrali, come diceva Maria. Avete intenzione di farle in modo sostenibile, cioè convincere la gente a entrarci dentro e dargli una situazione tollerabile, o addirittura metterci dei criminali per un periodo e poi rincazzate. Insomma, è tutto in becoming, però non volete più i segreti oscuri che ci sono stati in precedenza. O forse sì, sei tu il presidente, fai quello che cazzo vuoi. Il tuo finale, per quanto mi riguarda, è sulla nave diretta ad Ufarland, mesi dopo, un paio di mesi dopo, e sulla nave di importanti ci siete voi tre, tu, Devin e Maria. Maria che si occupa di squartare tutti gli animali che si avvicinano alla nave. Quindi, cosa hai intenzione di fare, Devin, dopo questo? Non credo di avere molte opzioni, cioè o prendo un'amnistia oppure sarò qua per un po'. Mi sorride, fa... Penso di sapere come convincere la persona che dovremmo imprigionare. Sì. Le chiederò per favore. Penso che lo farà. Se questo significa proteggermi. Sei una stronza manipolatrice. Già. Abbiamo così tanto in comune. Altro posto. Che si appoggia al come si chiama, al bordo della nave, cioè. Okay. Ogni tanto lo vedi che spara ai mostri marini svogliatamente, tanto c'è Maria che lo sa fare meglio di tutti voi messi insieme, e sparando dice: sa lei come sta? Da tanto tempo che non la vedo. O intendi Maria? Intendevo Kael. Mi schifa. Chi? Nessuno. Oh, attenta, e spara un coso che ti stava arrivando addosso. Grazie. La vuoi tagliare la scena e lasciamo finale aperto? Sì. Non ne ho tantissimi ancora, ci siamo quasi. L'eremita. Una vita passata a cercare la verità dietro le menzogne, per poi scoprire che non c'è una verità. Il bel ragazzo sta salpando per una nuova destinazione. Tutto ciò che ha visto lo ha portato a non credere più a niente. Eppure, la sua mente scientifica rifiuta l'incomprensibile. Yona, o Laga, ha dimostrato che si può andare oltre se si è disposti a perdere tutto. ma Deimos non è il tipo da rischiare tutto. Lo attende una vita tranquilla, da ricercatore della Zenith Auster. Forse diventerà il direttore della centrale, forse il rettore dell'università. Il tre di spade. Marika Kovos, ti ho letto le carte da Peira e nel tuo futuro vedevo tradimenti, sacrifici, alterazioni. La ragazza bionda, in compagnia di Deimos, fugge dalla chiesa di Esboson. Ascendendo le scale vede un bullone di bronzo per terra e sente il bisogno di raccoglierlo. Corruga la fronte, non capendo se sia infuso di energia magica o meno, e continua a scappare col bullone nella tasca. Oltre i confini del mondo, Voidart sorride, sapendo che non è ancora finita. Una dozzina di altre carte mostrano i vari cimiteri, varie lapidi e vari cadaveri abbandonati nei campi. Caspar Zischaffer, Lydia, Beatrix Carlaingardum, Riegel, Batu, Dayton, Amelia Sefinia, Asmo Flower, Dermon Skiliseto, la intera famiglia Bjornsson, Uru il tatuatore, Solomon Rosenkrantz, Rebiega, Gus e Pau. Il resto del mazzo si sparge nel fango. Le carte, una dopo l'altra, lasciano un percorso dietro ai due che, tenendosi per mano, camminano verso l'unico bagliore dell'infinita landa di fango e onde. E resteranno insieme per sempre. Rollano i credits e abbiamo la scena post-credits, che so che volevate. Oddio. Come, non era la roba di Marika la scena post-credits? No. Una giara. La mano di Esche, non so, di Esche non si muove. Iromaru, cazzo! Abbandonata in un campo di battaglia, una piccola stella marina nera si prodiga di pulire tutti i corpi, consumandoli fino alle ossa. Lentamente si prodiga ad andare in mare verso la carcassa di Senic e pensa tra sé se il grasso pesce aveva tantissima carne, stasera si mangia un sacco. Chissà se un giorno diventerò grande come lui. Ma io non penso che butterei la mia vita per qualcun altro. Eppure sento che vorrei aiutare chi mi ha aiutato. Tempo al tempo. Uno squalo gli si avvicina e spalanca le fauci come per mangiarlo. La stella marina lo trafigge coi tentacoli e squarta in mille pezzi il suo corpo, consumandoli uno dopo l'altro. Non vedo l'ora di essere il più grande di tutti. Ora è finito. Il goat. We are so back. Ho skippato lieto perché A, l'abbiamo fatto prima, e B, se facciamo la cosa di lieto lo andiamo a vedere, mentre le vostre sono concluse. Io vorrei far notare a chi non ha visto il mio nickname su Discord. Sei tornato ad essere solo Sirio. Sì. Oh, devo togliere anche qui. Siete tornati ad essere solo voi. Che tristezza. Io ho il mio... Nibel non è morto, quindi lo tengo. Sì, infatti, voi... Miff non è morto. Miff non è morto. È vero. Io ho una domanda. Vai. Degli NPC, il... Chi è quello che voleva suonare? Chi voleva comporre la canzone? Tu mi sa che non l'hai mai visto, è Turo no. Il Nadiro. Ah, ok, però ok, Nadiro... non l'ho mai visto. Infatti, perché io tipo, questo non lo conosco, tipo, what the fuck? Era comparso nelle backstory di Naya, di Miff. Se non sbaglio abbiamo fatto una one shot in cui c'era. Era comparso nel flashback di Adone, era un tizio al matrimonio, se no al ricevimento a Singida. Oddio, Valdias. Ho capito chi è! Ho capito, era quello con gli occhialoni, tipo? Sì. Era un nadiro sotto mentite spoglie. E niente. E era un giovane nadiro, quindi aveva qualche centinaio d'anni, che era in Solveria per studiare i solverici. Ok. Tira. C'ero con tutti e poi tipo... Sì, ci sta. Chi è questo? Austin avrà missati tre quarti, perché giustamente erano quasi tutti di Fateless, questi personaggi. Oh, certo. Sì. Peccato. Mi aspettavo, essere onesto, un comeback di Zan Zan come qualcosa. Sei onestissimo. Io, scusatemi, com'è che è tornata ora? Me lo son perso, quello coso lì, ma... Perché non è mai stato fatto un patto con questa creatura... Sì. Ok, e basta, però... Fuori non scena. Sappiamo ne... No. Ok, fuori scena. Che dire? L'int era che non hai mai trovato il cadavere. E al posto dove si sarebbe suicidata c'erano delle robe paranormali strane. Me lo ricordo. Che abbiamo trovato oltretutto con le parti, sì, me sì. lo ricordo. E non l'avete mai indagate, però erano robe relative ad Erebos. Perché l'abbiamo lasciata per i cazzi suoi, aveva deciso di morire, non l'abbiamo più fermata. Invece questo gli ha distrutto le memorie orribili di Nyarlathotep, quindi ora è una persona come prima. Una persona un pochino più incattivita, forse. Sì. Mamma mia. Secondo me non proprio... così tanto. Però dovevi fare la voce di Comodaci. Vabbè. Non abbiamo fatto nulla d'ora, dai. No, ma infatti non ce l'ha con voi. No, ce l'ha con il resto del mondo. Ma, Os, qual è la promessa che dicevi? Qual è know. La promessa? I know. No, non me la ricordo. La promessa di uccidere l'Adone. Ti ha fatto una promessa. Ti ha fatto una promessa che avrebbe fatto un buon lavoro. E un uomo porta sempre a termine la sua lavoro. Non ho ancora finito il suo lavoro. Comunque, Vianni, io c'ho... poi delle grandi idee se vuoi giocare un'altra campagna con Lieto. Faccio sapere. Vuoi. Io senso... ho avuto un'idea per il personaggio di Fated 3. Fated 3. E quella di Fated 3. Qual è Fated 2? Sì, infatti. Cioè... per me... il film della sua testa. Patrono maledetto, Fated la prossima. Cioè, scusatemi, io sono... Fated sono 1. Un OG, posso dirlo? Io sono un OG, cazzo! Io sono qua dal mille... Non lo dire, Os, non gli sbattere in faccia sta cosa. È vero, tu hai giocato ancora... Sì, vabbè, Stella. Lo so, Stella, sì, ma... Sì. È vero, Os ancora prima. Vabbè, Os non ha fatto il patrono maledetto. No. E io ho giocato a Void una vita e mezza fa. Porco Dio, è vero? Te lo ricordi che ho giocato a Void, tipo nel 2017, una cosa del genere? L'ho scritto. Raga, io nel... ascolta un secondo... E, comunque sì, no, ho grandi piani per Lieto, nel senso, come persona. Io nel 2017 avevo 14 anni, anche volendo non... No, ha esagerato, era il 2013, wow. No, non era il 2023, era prima del Covid che abbiamo giocato a Voidart. Ti giuro, ci abbiamo giocato prima del Covid. Non era Voidart, allora. Me lo ricordo benissimo, aspetta. Col fila però... ci abbiamo giocato. Col fila? Era forse... Guarda quanto l'hai scritto la prima volta, Voidart. Ma Fre, è l'anno che è morto mio nonno, me lo ricordo per quello. Ok, vabbè, allora ci sta. Cioè, potrei sbagliare. Ma era il 2023 il patrono. Oltre Nadir era il 2021. Sì, è più vecchio, infatti. A Nadir mi avevi invitato, tipo, ma non sì, avevo giocare. Sì, avevi rifiutato perché mi odi. Mm-hmm. Sì, ovviamente. È l'unico motivo per cui non sono venuto a giocare. E boh, stai beh, ancora registrando Pjanic? Sì, 22 Voidart. Va bene, comunque io adesso sparisco che vado a giocare e... senso? Vai a giocare ad altro. Vado a, gio-